Buongiorno sì. Antonio, benvenuto. Buongiorno. No, io voglio dire questo, io sono un medico. Ah. Un secondo solo, che infatti c'è un paziente. Ah. Un attimo solo, scendo subito. Buongiorno. Lei non è Sant'Antonio da Padova? No, io sono Gianni. Durante il periodo mestruale nelle donne ci può essere un po' più di fragilità della mucosa. Ma questa proprio non la sapevo. Vedi? Ma sì. quante ce ne succedono in quei giorni, Nicoletta? Sì. 800 24 00 24, continuta con papà. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Nico, niente bollicine in diretta per noi oggi. Siamo effervescenti naturali, non gasate. È un po' di bollicine in meno, no, è modeste. Un po' di bollicine in meno ci saranno però sugli scaffali di una nota catena di discount. Diciamolo perché tanto la notizia era sui giornali, certo, di questi giorni. Lidl, che a quanto pare non venderà più la Coca-Cola, la Fanta, la Sprite, un accordo che è saltato in questi giorni per motivi di denari. Però Deborah, la cosa potrebbe far bene al cuore. I medici ci dicono da anni che il consumo eccessivo di bevande gasate pesa sulla nostra linea, come d'altronde pesano tutti quei fuoripasto che sgranocchiamo quasi senza accorgercene per gola, noia, oppure per spegnere quel languorino che si fa sentire in particolari momenti della giornata. Meno male, Nicoletta, che ci sei tu, donna di cuore, che con i tuoi esperti da anni ci consigli quali alimenti mettere nella nostra dispensa e a quali è meglio annullare il contratto, proprio come ha fatto Lidl. Allora, voi quali alimenti avete eliminato dalla vostra dispenso, dal vostro frigorifero, e lo avete fatto per ragioni di cuore o di denari? 800 24 00 24. Se ci avete guadagnato, chiamateci subito, così che anche Deborah e io possiamo fare tesoro della vostra esperienza. Certamente. E se invece il contratto non l'avete annullato con un prodotto, ma addirittura con un negozio, con un supermercato a cui avete detto ciao ciao perché evidentemente c'erano prodotti che costavano troppo e siete tra i sempre più numerosi clienti dei discount, raccontateci come vi trovate e se questa scelta è stata vantaggiosa non solo in termini di denari ma anche di cuore, se siete sicuri cioè di trovare prodotti di qualità. Un altro modo per intervenire e parlare con noi è inviarci dei messaggi al 349-238-6666 o animare la pagina Facebook. Oppure mandateci un tweet al profilo di Cuore Denari e raccontateci un alimento a cui avete rinunciato o per ragioni di salute o per ragioni di portafoglio e uno invece a cui non rinuncereste mai. Salva Danaio. Stai cercando nel buio di una lattina vuota ed il colore del cielo che sopra la testa non lo vedi più. Dai retta a me, non hai perso nulla, era una tipa sbagliata. E come accennavamo in apertura, è saltato l'accordo fra il gruppo Coca-Cola e la catena Lidl, che d'ora in poi non venderà più né la celebre bibita, né Sprite, né la Fanta e tutte le altre bevande del gruppo. Dopo alcune indiscrezioni giornalistiche, in questi giorni, come sapete, c'è un grande evento a Davos, in Svizzera, e un portavoce di Lidl ha confermato questa appunto notizia. Sarebbe mancata l'intesa sul prezzo. C'è già chi dice che si tratta solo di una prova di forza e che questi prodotti torneranno sugli scaffali della catena tedesca molto presto. Se no, pazienza, si sceglieranno altre marche, dai. Proprio così, sei arguta. Infatti un altro problema per la Coca-Cola e altri brand è la tendenza storica dei discount a fondare etichette proprie che fanno concorrenza ai prodotti più famosi. E voi raccontatecelo, vi affidate ai discount e noi ne parleremo con gli esperti di denari a partire dalle 11.30, ma intanto voi cominciate a darci materiale di cui discutere, chiamateci all'800 24 00 24 o scriveteci al 349-238-6666. 349-238-6666. E oltre a dirci dove fate la spesa, raccontateci anche un po' com'è il carrello della vostra spesa, com'è cambiato in questi tempi di crisi, se la Lidl e i suoi clienti costringe a rinunciare temporaneamente alla Coca-Cola. Voi diteci a quali alimenti avete rinunciato, eliminandoli dalla vostra dispensa o dal vostro frigorifero, e se lo avete fatto per ragioni di salute o per ragioni di portafoglio. Ma se la rinuncia vi è costata cara, insomma, se l'alimento che avete deciso di non acquistare più vi manca e temete di capitolare, di non resistere tanto a lungo, chiamateci, perché troveremo insieme ai nostri esperti alternative salutari e anche risparmiose. Stuzzichini, moscardini e una bibita del quattro culù, abbronzati e tatuati. Bene, ma anche se dietro alla decisione della Lidl di sfrattare la Coca-Cola dagli scaffali non ci sono motivazioni salutiste, alla fine questa scelta potrebbe risultare vantaggiosa, perché ci sono delle ricerche molto interessanti che misurano i danni provocati da un consumo eccessivo di questo tipo di bevande, che minacciano la salute del nostro cervello e anche quella dei nostri reni, naturalmente, oltre che quella della nostra linea. Cerchiamo di vederci più chiara. Allora abbiamo invitato la dottoressa Maria Giovanna Luini, scrittore, medico e comunicatore scientifico all'Istituto Europeo di Oncologia, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno Radio 24. Dottoressa Luini, intanto che cosa significa consumo eccessivo? Il consumo eccessivo di bevande gassate, nello specifico, perché di questo parleremo, è consumare due lattine ogni giorno, cioè più di due lattine al giorno. In verità io credo che ci voglia un po' di logica. Una lattina al giorno, se è portata avanti per 30 anni, probabilmente non uccide, ma è consumo eccessivo. Quindi io credo che si debba usare la logica. Andiamo allora adesso alle ricerche, intanto che noi cerchiamo di conteggiare quante lattine abbiamo bevuto. Facciamo presto ad arrivare a due. No, allora, le ricerche ci sono, alcune sono più attendibili, altre meno. Per esempio, c'è una ricerca che riguarda i topi, quindi già insomma può aprire molti dubbi, e personalmente sì, ne ho tanti. E questa ricerca direbbe che il consumo di più di due lattine al giorno di bevande zuccherate, sì, quindi bibite gassate zuccherate, certo, possa compromettere le proteine del cervello, quindi danneggi direttamente il cervello. Ora, questo studio secondo me è poco attendibile per tante ragioni, anche per il fatto che sostituisce completamente l'acqua con le bevande dolcificate, con le bevande contenenti zucchero, che non è possibile. No, esatto, ecco, non esiste al mondo. Allora, c'è un altro studio però che invece mi sembra molto interessante, che riguarda 3.000 donne seguite per 11 anni dall'Università di Boston. E in queste 3.000 donne si è visto che un consumo di bevande gassate dolcificate, quindi contenenti dolcificante, alla lunga ha portato a una compromissione abbastanza rapida ed evidente della funzione dei reni. Cosa vuol dire? Vuol dire che le bevande gassate che contengono zucchero possono essere dannose se consumate in eccesso, sia nei bambini che negli adulti, ma questo è ovvio, perché se noi prendiamo acqua e zucchero tutti i giorni e la dose di zucchero è alta, prima o poi qualche danno lo facciamo, se non altro perdiamo aumentiamo di peso. E la nostra insulina, che è un ormone per noi molto importante, a un certo punto non capisce più niente, perdiamo l'equilibrio dell'insulina. Ecco perché, per esempio, le bevande gassate possono indurre dipendenza, perché se noi beviamo tutti i giorni acqua e zucchero, poi diventiamo dipendenti da questa acqua e zucchero. L'altro problema è un problema legato ai dolcificanti, perché a quanto pare lo studio di Boston dice che i dolcificanti presenti nelle bevande gassate possono alla lunga appesantire i reni, quindi compromettere la funzione renale. Questo è un dato importante, perché è su 3.000 donne e su un periodo lungo di osservazione. Ora, per esempio, l'aspartame bevuto tutti i giorni in due lattine di bibita non è molto salutare, anche se direttamente non possiamo affermare che provochi malattia. Ecco perché dicevo che ci vuole la logica. Bere bevande gassate, dolcificate oppure con tanti zuccheri, per noia, perché non sappiamo cosa fare, perché ci viene più comodo, non è un esercizio di prevenzione salutare. E quindi, insomma, una lattina con una pizza ogni tanto, ma non esageriamo, mi pare la logica. Il suggerimento di buonsenso idoneo stamattina. Parola d'ordine, logica, che è una parola che torna spesso a Cuore Denari, e ritorni a trovarci presto, dottoressa Luini. La ringrazio per essere stata con noi. Grazie, buona giornata. Salgo? No, aspetta. Come aspetta? Ho capito, salgo? No, aspetta. Ma come aspetta? Test del corpo non siamo mai pronti, veramente. E no. Invece lo facciamo. E allora lo facciamo. Ora puoi salire. Oh, ma è simpaticissimo. Salgo? Sì. Oh. Lì per te. Prego. Salto. Oh. Però, sei sovrappeso di brutto. Ma che? Dall'ultima puntata hai preso 8 kg. Ma quando mai? Ma saranno le scarpe. Ma non facciamo... Ma quali scarpe? Ma non diciamo cretinate. Beh, fai vedere. Adesso. Posso dire che io ho annullato il contratto con la bilancia? Con nessun supermercato, ma con la bilancia sì. Anch'io non la guardo. Beh, certo. Però quando vado da mia mamma, che la bilancia invece ce l'ha, mi peso. Vabbè, ma tu puoi farlo senza... Ormai però non vedo senza più. Rischiare l'infarto quando sali lì sopra. E comunque, qualche messaggio veloce di qualche ascoltatore. Eliminato la Coca-Cola, bibite varie, anche chewing gum, perché sono piene di... Ha scritto fuoro questa ascoltatore. Sarà il fluoro? Mancherà una L? Sì. Ecco, penso di sì. Io non ho cambiato in stile di vita e né in acquisti, ho cambiato supermercato. Sono un uomo cuoco di casa, economo. Mi chiamo Gianluca e scrivo da Bologna e noi lo salutiamo. Un'altra ascoltatrice ci scrive: per me la Coca-Cola può anche chiudere, ma alla cioccolata non si può rinunciare, ma quella buona. Invece Valeria ha dovuto rinunciare ai carciofi, che anche io li adoro i carciofi, e concordo con lei, un euro l'uno è decisamente troppo per le mie tasche. E tra l'altro questo prodotto, neanche se vai al mercato trovi qualcosa di più conveniente, perché è veramente poco poco economico, oltre che molto buono. Allora Nicoletta, come accennava la nostra dottoressa Luini, anche io sono riuscita a capire che non sono solo bevande gassate ad appesantire la nostra dieta di calorie. No, certo. Ci sono anche, sappiamo, tutti quegli alimenti che consumiamo per gola, per noia, per spegnere quel languorino. Esatto. Magari hai un po' di fame, mangi un crack, un biscottino, succhi una caramella, poi anche involontariamente ci possiamo predisporre al sovrappeso. Certo, anche perché poi ciascuno di noi ha l'ora X, quando ad esempio scatta quel buchino nello stomaco. Sì. Tu ad esempio, oltre alle bacche di goji... Tu lo sai quando mi scatta, appena finita la trasmissione voglio andare a pranzo. Sì, mi dice andiamo, si mangia. Esatto, io c'ho quella. Poi non sono una da spuntini fuori orario, sono estremamente regolare, però ecco, però la colazione non ci voglio proprio rinunciare. Allora diteci anche qual è la vostra ora X, quando avvertite o un calo di energia o quel languorino, insomma siete portati a smangiucchiare qualche cosa. In linea con noi è tornato a trovarci il nostro dottor Filippo Ongaro. Buongiorno dottor Ongaro. Buongiorno a tutti. Così rido perché, a proposito, ancora prima di presentarla i nostri ascoltatori già parlavano di lei, e Carla ci ha scritto: ho rinunciato allo zucchero, mettendolo tra virgolette, per colpa di Essere Benessere di Ongaro, e sono felice di averlo fatto. Allora no, colpa dai. Lui li terrorizza dottor Ongaro, questi nostri ascoltatori. No, assolutamente no. Comunque dottor Ongaro, è vero che noi siamo un po' lontani dalla massima di Ippocrate, che lei cita spesso: fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo, in termini di quantità e di qualità. Mangiamo tanto, troppo, fra le 30 e le 50 tonnellate di cibo nel corso della vita, e la nostra dieta, lo sappiamo, spesso è troppo dolce o troppo salata o troppo ricca di grassi. Sì, io ascoltavo prima l'intervento della dottoressa Luini, che credo che abbia toccato molto bene il punto, cioè la questione qui non è quella di demonizzare il singolo alimento, perché il paragone che lei faceva tra la bevanda diciamo industriale e riempirsi di acqua e zucchero è assolutamente pertinente, nel senso che in questo caso il problema è il carico di zucchero, ecco. E nel mondo occidentale siamo circondati da tantissimi alimenti che sono ipercalorici e molto spesso iponutrienti, incidono sul peso, sulla salute. Esistono anche in natura gli alimenti supercalorici, senza dubbio, ma apportano sempre qualche cosa che ha una sua utilità. Le noci, per dire, di cui abbiamo parlato molto spesso, sono ricche di calorie, ma hanno anche tante vitamine, tanti acidi grassi, hanno fibra, hanno antiossidanti. Nei prodotti industrializzati di cui siamo abbastanza circondati questo spesso cambia. Lo zucchero certamente è uno dei problemi nelle sue varie forme, abbiamo parlato dei dolcificanti un attimo fa, è giusto citare perché anche quello è un problema, anche la quantità di sale, i grassi aggiunti e tutto viene, diciamo, fatto in un'ottica che porta a esaltare il gusto, senza dubbio, quindi a creare degli alimenti che sono particolarmente buoni, e noi siamo molto suscettibili a questa attrazione di questi gusti e quindi è molto facile cedere. Quando non c'è l'eccesso, il problema in sé, insomma, è difficilmente come dire, sottolineabile, nel senso che se si tratta di eccezioni o se non è la regola quotidiana difficilmente ha il potenziale di creare un danno, ma in molte persone invece non succede questo, cioè diventa veramente poi un'abitudine quotidiana e va all'eccesso. Poi, tra l'altro, stavo osservando tra gli sms degli ascoltatori, qualche volta si verifica un evento un po' scatenante nella vita che rende tutti molto più sensibili rispetto alla qualità della nostra alimentazione e quindi si riesce a cambiare con più facilità. Per esempio c'è Michela da Mantova che ci scrive: da quando è nato mio figlio Christian mangiamo molto meglio, stiamo attenti che tutto sia italiano e biologico, non rinunciamo al pesce due volte alla settimana e alla qualità, tanta verdura e frutta bio, ovviamente abbiamo rinunciato a merende e dolci, faccio tutto in casa, persino la pasta. Ce ne mandi un po'. Michela, noi siamo pronte all'adozione in casa sua. E intanto andiamo a sentire che cosa ci raccontano Michele, che ci chiama da Caserta, ed Emanuela dalla provincia di Belluno. Intanto rinnoviamo l'invito a raccontarci che cosa avete eliminato dalla vostra dispensa, ma io immagino che il dottor Ongaro sarà anche molto curioso di sapere che cosa sgranocchiate nel corso della giornata. Siete più portati per il dolce o per il salato? E che cosa fate in sostanza quando avete un buco nello stomaco? Che cosa mangiate quando siete un po' nervosi e dopo cena, che è un momento un po' particolare, siamo stanchi, siamo davanti alla TV, mangiate o non mangiate? 800 24 00 24. Michele, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire sui discount. Sì. Io sono dipendente di una grossa catena, se potevo fare il nome. Non è una parolaccia, e quindi noi accogliamo, ne abbiamo fatti tanti stamattina. Sì. Lavoro per Eurospin. Ultimamente sul web sta girando una guida, praticamente sono i prodotti da chi vengono fatti. Sì. E molti dei nostri prodotti sono fatti da grandi aziende, Berretta, Fiorucci, Colussi, quindi molte persone screditano il discount perché credono che sono prodotti scadenti, quando poi non è vero, perché sono grandi aziende che fanno prodotti esatto, per noi. Ma si riesce, come dire, a metterli sul bancone a prezzi inferiori, questi prezzi, perché magari nel confezionamento c'è, non dico una cura minore, ma una come dire, proprio il packaging che viene fatto in maniera diversa, un pochino più spartano. Esatto, infatti perché noi apriamo il cartone che è già pretagliato e mettiamo subito lo scaffale. Non abbiamo da mettere pezzo singolo. Certo. Credo che comunque lì è il guadagno, diciamo, per la ditta. Anche, certo. E ne parleremo tra l'altro nella seconda parte del programma, proprio con un esperto di questo campo, di questo mondo, e quindi ci faremo anche da lui confermare qual è il mondo dei produttori che riforniscono poi i discount. Quindi prenotatevi, chiamateci 800 24 00 24. Oggi ci muoviamo dal supermercato, dai discount alla nostra dispensa, lo faremo con tanti esperti come sempre, e andiamo a salutare Emanuela che ci chiama dalla provincia di Belluno. Buongiorno Emanuela, benvenuta. Buongiorno, grazie, vi ringrazio per la vostra cortesia e il vostro savoir-faire, siete bravissime, vi ascolto quasi tutti i giorni quando posso. Emanuela, lei anche, non so se il dottor Ongaro è d'accordo, ma lei ha un caffè pagato da parte nostra. Infatti io mi allargavo, ha vinto una bella settimana di soggiorno. No, guardi, veramente, perché siete competenti, però con un bel modo che mi avete convinta in tante cose, devo dire. Io sono un po' sovrappeso sempre, perché da quando sono nata. Però ero molto prevenuta per i discount. Quando hanno aperto prima quella catena che avete nominato all'inizio, sono stato 3 anni senza entrare. Addirittura, neanche curiosare, sì, perché non ero obbligata a comprare. No, perché ero convinta che c'era un po' spacciatura, come era in altri stati, in altri. Invece devo dire che, ad esempio, il pesce, io ho rinunciato alla carne. Cioè, pesce posso fare dello scoglio buonissimo e a prezzi, a metà prezzo degli altri negozi, ma veramente pesce buono. Cioè, devo dire, le verdure lo stesso. Certo. E quindi ho rinunciato allo zucchero, quello sì. Quando uso poco di zucchero di canna, che so che ha le stesse calorie, certo, però mi piace di più. Esatto, una battaglia di Luca Voledo, allora, ecco, qua sappiamo tutto. Il dottor Ongaro sarà molto soddisfatto, sì, perché sì. Emanuela, dalla provincia di Belluno, ci ha raccontato una spesa che punta su sostituzioni, la carne, esatto, l'ha sostituita con il pesce, ha ridotto lo zucchero, se non eliminato. Dottor Ongaro, questa... No, sono certamente molto contento e sono anche sempre molto felice di sentire che questi sono gli effetti che si ottengono anche seguendo una trasmissione radio. Questo è molto bello, cioè il fatto di poter intervenire nella vostra trasmissione e alle volte portare delle informazioni che poi sortiscono un vero cambiamento nelle persone, credo che sia una cosa... insomma, molto, molto importante oggi. Certo. Volevo commentare un attimo il tema invece del suo atteggiamento verso il discount. Lei dice: io per 3 anni non ci sono entrata, pur avendo aperto proprio qui vicino a casa mia. Devo dire che questo atteggiamento era molto diffuso all'inizio, quando appunto questa modalità di distribuire prodotti alimentari è arrivata appunto in Italia, e il pregiudizio era, come dire, l'atteggiamento più diffuso. Ti dico che addirittura una volta io ho sentito come dire, definire questi discount i supermercati degli extracomunitari in maniera veramente anche offensiva. Che cosa vuol dire? Però insomma, all'inizio della loro avventura in Italia effettivamente il pregiudizio era grande. Adesso si sono molto riorganizzati, sì, e possiamo dire appunto che c'è grande qualità della produzione che troviamo sugli scaffali, e ne adesso parleremo più tu tardi. Lo sai che devi leggere i mercati, mamma mia, Deborah, invece impegno. Che parlare di scaffali, vedi che allora è giusto che io abbia sempre fame, perché guarda quanto lavoro. Mercati. Qua, de, lei che ti staccate il frigidero, questo aspetti quest'inverno su che vedeste. Diventi un fresco po' da dire per gli amici, quando vengono a trovate stanchi morti e sue. E non ti pensi a roba, che te da parte mi tiro e vei facevi me. Cara Nicoletta, tutti più sensibilizzati dal dottor Ongaro, stiamo facendo, anche se idealmente in questo momento, però io sto riflettendo su quello che ho nella mia dispensa e che dovrei far volare fuori dalla finestra. Stiamo invitando i nostri ascoltatori a fare un po' di ripulisti nelle nostre dispense, nei nostri frigoriferi. Magari abbiamo rinunciato a qualche alimento per ragioni di cuore, e forse sarà per colpa tua, Nicoletta. Anche del dottor Ongaro. Esatto. E per colpa mia invece ne eliminiamo qualcuno di troppo per ragione di denari. Sono solo ragioni di denari quelle che hanno spinto il tema che stiamo commentando questa mattina, la Lidl, ad escludere i prodotti della Coca-Cola dai suoi scaffali. Se non fosse una notizia che arriva dalla Germania ma dagli Stati Uniti, diremmo che c'è sotto lo zampino di Michelle Obama. Eh già, perché Michelle sta facendo una grande campagna per ridurre l'obesità infantile. D'altronde però non è l'unica, e per fortuna certo. In Inghilterra si vogliono togliere gli snack che si trovano alle casse, e pensa che gli Emirati Arabi hanno deciso di vietare le confezioni extra large di bibite gasate, un provvedimento che, ti ricordi, l'aveva già fatto l'ex sindaco di New York, Michael poi Bloomberg, è stato annullato sì. Perché la Corte Suprema aveva detto che togli la Coca-Cola agli americani. Beh, qua. Certo, i produttori si erano lamentati e questo era stato ritenuto un arbitrario e frutto di un capriccio, insomma. Sì, infatti, è dura. È importante la qualità di quello che si compra, ma in tempi di crisi i denari fanno la differenza. Stiamo esplorando questa mattina il mondo dei discount, e fra po' conosceremo di più di questa realtà con Giorgio Sant'Ambrogio di Interdis. Ma direi intanto di continuare a sentire i nostri ascoltatori, a commentare le loro rinnovate abitudini alimentari col dottor Ongaro. Certo, e abbiamo Alberto che ci chiama da Verona e poi Antonio che ci chiama da Pordenone. Ottimo. Diteci anche se siete degli sgranocchiatori, perché questo può fare la differenza, vero dottor Ongaro? Ma fa moltissima la differenza, soprattutto quando si sgranocchia il famoso momento della sera davanti alla televisione, a cena, dopo cena, è un momento critico per molte persone. Allora, sentiamo Alberto, se è uno sgranocchiatore o se è un consumatore attento, va a fare la spesa dove la fa, se sceglie con cura, se guarda più la qualità o se guarda più il prezzo. Alberto. Salve. Buongiorno. Allora, Io no, non sono un smucchiatore, diciamo che piuttosto consumo parecchia frutta fuori pasto, non consumo un genek, né dolci né salate, insomma, proprio per abitudine. In famiglia abbiamo 3 figli e ho visto che da qualche tempo, sì, ma parecchio diciamo, non abbiamo mai acquistato in maniera sistematica bibite gasate e dolci, ma è sempre stata un'abitudine diciamo occasionale. Abbiamo eliminato anche tutti i prodotti industriali da forno, cioè i prodotti dolci da forno, sostituendoli con appunto più frutta oppure con dolci mm-hmm. fatti a casa, insomma basta organizzarsi, a volte veramente... È vero Alberto, è vero, basta organizzarsi. Infatti. Ecco, e tante volte con la scusa non ho tempo si butta tutto, si fa la spesa in modo molto veloce, senza leggere bene le etichette, si preferisce sostituire magari una porzione di verdura con qualche cibo già preparato, preconfezionato, o magari si usano le verdure in scatola che sono assolutamente, come i legumi, assolutamente consigliabili, ma senza magari risciacquarle. E noi sappiamo che il contenuto di sale è molto importante, può fare la differenza. Dottor Ongaro. No, penso che l'ascoltatore ha detto delle cose molto sensate. L'uso della frutta chiaramente come snack va molto bene. La frutta ha ovviamente un contenuto di zucchero piuttosto alto, di fruttosio, ma è anche ricca di fibra e ricca di altri nutrienti salutari, quindi assolutamente accettabile, anzi da sostenere. Anche il cambiamento tra prodotti industriali da forno e l'utilizzo un po' più casalingo artigianale anche dello stesso tipologia di prodotto fa la differenza, intanto perché posso scegliere per esempio di utilizzare non so una farina integrale anche per fare un dolce per esempio, poi posso modulare io consapevolmente la quantità di ingredienti che metto dentro, e in più in genere il dover prepararsi le cose piuttosto che trovarsele pronte riduce comunque la quantità consumata in generale, quindi secondo me ha fatto un commento molto molto giusto. Molti ascoltatori come Dario si lamentano che è quasi impossibile trovare alimenti privi di zucchero, e mi cita ad esempio succhi di frutta, anche la pasta, sappiamo che ci sono degli zuccheri semplici e degli zuccheri complessi. Dottor Ongaro, la stessa cosa gli ascoltatori la riferiscono per il sale, insomma sembra che questi due, zucchero e sale, siano difficili da eliminare dalla dieta, ma noi abbiamo dato tanti consigli, ci sono delle sostituzioni che possono aiutare a fare pace e riattivare anche il gusto, dottor Ongaro. Però in parte questo è appunto quello che stavamo appena dicendo, cioè certamente c'è un uso molto vasto, molto importante di zucchero e sale nella catena alimentare industriale, e le ragioni sono varie, ma una delle ragioni è che rendono i cibi oggettivamente più buoni, e siccome a cibo più buono equivale a una maggior soddisfazione del consumatore, è chiaro che c'è un senso nell'aver introdotto questa cosa. Chiaramente nel tempo si è capito che questo ha degli effetti che non sono i migliori sulla nostra salute. Beh, la soluzione è ovviamente utilizzare quel tipo di prodotto meno e cercare di utilizzare invece degli alimenti che siano il più freschi, genuini e naturali possibili, quindi invece del succo di frutta usiamo la frutta per dire, no? Succo di frutta rimane una cosa accettabile ma da utilizzare con un'attenzione maggiore, peraltro ci sono anche comunque succhi di frutta senza zucchero aggiunti. E allora è importante la qualità di quello che si consuma, è importante la qualità anche del nostro atteggiamento nei confronti degli alimenti, è importante la qualità di quello che si compra, ma in tempi di crisi i denari fanno la differenza, ed è proprio a questo punto che giocano un ruolo importante i discount, che sembrano mettere in discussione il motto chi più spende meglio spende. Allora io ringrazio e saluto Giorgio Sant'Ambrogio, gruppo Interdis, ben ritrovato nel nostro programma, anzi lei a Cuore Denari non era ancora mai venuto, era ospite. Buongiorno. Allora, prima di tutto, tra l'altro poi le racconterò, lei era in aereo fino a poco fa, le racconterò che cosa ci ha detto prima un'ascoltatrice in questo suo nuovo atteggiamento nei confronti del mondo dei discount, verso il quale non si avvicinava neanche fino a poco tempo fa. Una volta scoperto... E adesso è rimasta conquistata. Esatto, ha scoperto un mondo. Però vorrei fare un po' di ordine anche rispetto alla notizia dalla quale siamo partiti, Sant'Ambrogio, perché noi abbiamo raccontato quello che ha deciso di fare questa catena molto nota, che è Lidl, che ha deciso di interrompere il suo contratto con Coca-Cola e tutte le bibite appunto del gruppo, e non per ragioni di salute e per ragioni situazioni, come dire, di attenzione particolare nei confronti della salute dei clienti, dei consumatori, ma lì hanno litigato su una questione di prezzo. In Germania c'è una vera e propria lotta tra i centri commerciali, fra le insegne della grande distribuzione, perché stanno veramente facendo a gara chi fa i prezzi più convenienti, tant'è vero che poi in Europa stiamo cominciando a parlare come ricaduta generale di problema di deflazione. Questo è un altro argomento che magari affronteremo un'altra volta, ma lei ce la racconta un po', secondo il suo punto di vista, cosa può essere successo fra questi due brand così, così noti? Sì, allora innanzitutto un buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, ho letto anche nelle riviste straniere che è quello che è successo, ma sostanzialmente è un problema esclusivamente commerciale, è un problema legato alla negoziazione, tant'è vero che sullo scaffale rimane quello che è il competitor d'eccellenza, che è appunto Pepsi. Qui bisognerebbe fare un po' di chiarezza. In linea di massima ci sono due strategie, due correnti di pensiero all'interno dei discount, del format dei discount, e anche in Italia ciò si riverbera anche su quelle che sono le scelte assortimentali dei discount. Vi sono alcune di queste catene che inseriscono i prodotti di marca, quelli che noi conosciamo, appunto il Coca-Cola piuttosto che Barilla, Ferrero e quant'altro, e hanno una politica ad hoc con questi, con questi prodotti di marca. Altri invece che non hanno per niente dei prodotti di marca e hanno soltanto delle marche proprie, marche di fantasia fatti da Ecopacker. Beh, nel primo scenario diciamo che è tipico che ci siano delle lotte negoziali tra la grande marca che vuole imporre la propria brand loyalty che ha nei confronti dei clienti, pur essendo in una catena low cost come il discount. E allora qui le scamotage sono molteplici. Cioè, per loro è un centro commerciale come un altro, per cui vuole spuntare il medesimo prezzo, è un punto di vendita. Altri mettono dei formati speciali per trarre, tra virgolette, trarre in inganno il consumatore e differenziarsi da quelli che sono invece le logiche dei supermercati. Fanno delle promozioni diverse rispetto a quelle che fanno i supermercati. In realtà non si può più parlare di un vero hard discount se vi è la marca all'interno di questi giustamente, certo, di vendita. Noi poi, non ci aspetteremo mai di trovare in certi appunto punti vendita la Coca-Cola, ovvio. Guardi, se io cito un'azienda concorrente, perché noi come gruppo VJ Interdis non abbiamo al nostro interno dei discount, pur avendoli un po' inventati con l'insegna Softi nel 92, però un'insegna concorrente che è Eurostile ha fatto ad esempio la scelta di non avere le marche industriali all'interno dei propri assortimenti, sta andando molto bene, sta facendo molti prodotti a marca di fantasia, marca propria, e a questo punto, avendo l'intera filiera dalla A alla Z sotto controllo, può fare quello che è appunto un'efficienza continua di filiera e proporre dei prezzi molto più bassi. Ha toccato tra l'altro un aspetto importante, poi Sant'Ambrogio la faccio concludere, il tema del accorciare la filiera e mettere a disposizione dei consumatori prodotti locali. Pensa, Nicoletta, quanto si aiutano anche, no, gli imprenditori del posto, magari agricoltori, quindi qualche volta nel mondo del discount facciamo anche attenzione a quali prodotti sono tra gli scaffali, perché può anche essere che stiamo aiutando l'economia del nostro territorio. Che ma ne certo, dici? Ma vero? Anche nei supermercati, ad esempio nei nostri supermercati Sidis, Di Meglio e Te, c'è la marca commerciale, si chiama adesso marca del distributore, che si chiama Delizie. Sa che l'82% del fatturato della marca commerciale Delizie è fatta da piccole e medie fornitori italiani? Quindi un escamotage che io consiglio a tutti i radioascoltatori è quello. Certamente quello di poter andare nel discount, più c'è un'offerta variegata, supermercato, ipermercato, discount, è meglio per il consumatore, stava a San Dio. Ma andando nei supermercati e sfruttando innanzitutto le promozioni e soprattutto la marca del distributore, ad esempio la nostra Delizie, che raggiunge circa il 20%, noi innanzitutto facciamo lavorare le piccole e medie imprese italiane, perché ovviamente non ha senso che noi ci facciamo fare la marca del distributore dalle grandi multinazionali. Evidentemente. Noi ci facciamo fare la marca del distributore da piccoli produttori locali, quindi quello che è il concetto del aiutare anche la piccola imprenditoria italiana. E avendo un prezzo che è di norma il 20-25% inferiore alle grandi marche, ceteris paribus, perché la qualità è la stessa, l'assortimento è lo stesso, i formati sono gli stessi, è un escamotage assolutamente idoneo per risparmiare, pur rimanendo nell'ambito del supermercato. Benissimo, Sant'Ambrogio si fermi lì perché dobbiamo andare a fare la pubblicità, sentire la pubblicità. Se vuole fermarsi le qualche altro minuto sul traffico. Esatto, cosa ho detto io? Vabbè. E intanto lui non lo sa, ma ha vinto un sabato pomeriggio di spesa con noi. Certo. Lui ci accompagna a fare la spesa con la sua carta di credito, chiaramente. Certo. Molto bene. Stava Sandir, come dice lui. È contento Sant'Ambrogio? Assolutamente. Bravo, vede cosa vuol dire? Si viene a ha voluto denari. Fare l'ospite a Cuore Denari e adesso ne paga le conseguenze. Andiamo. Cuore e Denari. L'hai letta questa notizia che ti ho girato stamattina? Sì, quello della baguette jambon beurre. No, l'ho lasciata a te perché tu hai una pronuncia francese. Hai visto? Eccezionale. Negli ultimi 3 anni ha registrato un aumento di prezzo del 7,5%, altro che deflazione. Costa adesso 2,71 euro, secondo un indice calcolato da una società francese. È il panino più venduto di Francia e contiene... prosciutto cotto, un velino di burro, dottor Ongaro, leggero, sì. Una foglietta di insalata timida e 2 fettine di pomodoro. Ecco, se così. Le piace, dottor Ongaro? Il pane però, la baguette non è integrale. No, direi di no. E anche quella, cosa ho detto, quella timida presenza di verdure, anche lì bisognerebbe renderla un po' più... Senta, lei non è molto famosa in Francia, perché qua tira così tanto questo panino che aumenta di prezzo, per cui evidentemente la domanda... è molto alta. I francesi sbagliano. Le regole dell'economia sono queste. Senti, abbiamo tanti ascoltatori da sentire, direi che adesso li mettiamo track tutti in fila, li sentiamo tutti. E poi Twitter @cuoredenari. Allora Sissi ci scrive: patatine fritte, formaggio fritto, toast con formaggio colante, formaggio, perché questo in certi periodi di vita sono ligia a stile salutare, poi mi trasformo in Mr. Hyde e mi viene nel tardo pomeriggio una fame specifica per grassi. È qua quando scatta l'ora X dell'ascoltatrice. A metà mattina Wanda ci scrive: ho bisogno di colmare il vuoto allo stomaco con cracker e un caffè decaffeinato. Vabbè, dai, questa la possiamo promuovere. È un ascoltatore o ascoltatrice, sì. Dice che questa mattina, dovrebbe essere un maschio. Ero partito bene con una colazione con la merenda a base che ha fatto, è un maschio per forza. Di latte, di riso e biscotti integrali. Quindi il dottor Ongaro sarebbe stato abbastanza contento, ci avrebbe aggiunto qualcosa. Poi, nel corso della mattinata, mi sono lasciata andare. Quindi ho mangiato una pizzetta, 2 salsicce secche di maiale. Ma anche lui. E poi 2 castagnole dolci, proprio per gradire, perché è arrivato il momento. Con la scusa del carnevale, dice lui, vabbè. Dottor Ongaro, questo lo bacchettiamo sulle mani? Sì, è sempre difficile rispondere a queste cose, perché si legge tra le righe che il problema è sempre un problema legato a questo discorso psicoemotivo, all'effetto un pochino ansiolitico che il cibo ha, e quindi soprattutto certo tipo di cibo che è più appagante, proprio perché ha un'azione più forte sulle zone del cervello che risentono di queste sostanze. E è il problema un pochino di tutti, insomma. Io spesso dico che se ricevessimo lo stesso senso di appagamento da un bel piatto di broccoli come lo riceviamo da questi tipi di alimento, avremmo risolto tutti i nostri problemi. Insomma, purtroppo non è così, e queste che ci raccontano non sono eccezioni, sono cose che capitano a molte persone, insomma. Vogliamo sentire i nostri ascoltatori? Sono in tantissimi. Perché il dottor Sant'Ambrogio è svenuto dopo la proposta che gli abbiamo fatto di passare il sabato pomeriggio con noi. Gli chiediamo se ha ancora un minuto di pazienza solo per un'altra domanda dopo, però mettiamo Antonio un po' di ciccia. Da Pordenone, Enzo da Salerno e Maria da Brescia. Maria, buongiorno e benvenuta, tocca a lei. Visto che buongiorno. Privilegiamo sempre le donne noi, Maria. Volevo fare una domanda al dottore. Ho un bambino che tutte le mattine per ricreazione a scuola prende il succo. E volevo sapere se è una cosa buona, se è una cosa valida, o è meglio alternare o fare che cosa. Grazie Maria. Un succo, dottor Ongaro, lei mi risponderà, bisogna vedere che tipo di succo. Ma allora diamo il consiglio per un succo naturale? No, cercare un succo ovviamente che sia al 100% frutta, senza aggiunta di zuccheri, e possibilmente magari insegnare al bambino, abituare il bambino ad alternarlo anche dalla semplice frutta fresca. Non è la presenza della frutta fresca, della fibra, fa una grossa differenza rispetto al succo. Comunque, ripeto, anche il succo, se viene scelto al 100% di frutta, insomma, è certamente meglio di tante altre cose. Antonio ci chiama da Pordenone, buongiorno a lei, benvenuto. Lui fa una cosa che faccio anche io, Antonio. Sì? Sì. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a voi, al vostro ospite, il dottor Ongaro. Allora, io ho chiamato per dire che sono un consumatore e un cliente dei discount, ce n'è uno in particolare molto vicino a casa mia, per cui lo trovo anche comodo per andare a fare la spesa, e lì trovo tutto quello che mi serve per una corretta alimentazione. Non sono un integralista dell'alimentazione salutista, però insomma mi difendo bene. E poi sono anche uno sgranocchiatore. Mi piace, Antonio. Un topolone, qua. Allora, io sgranocchio, ed è proprio il termine giusto, quando ho quei momenti di fame chimica, mandorle. Io con me ho sempre delle mandorle in macchina, mangio un pugnetto di mandorle e mi soddisfano anche dal punto della consistenza, perché trovo molto più appagante mangiare qualcosa di consistente piuttosto che uno yogurt, per che fare un esempio. Dottor Ongaro. Niente da dire, è un'ottima scelta. Un'ottima scelta, è un alimento certamente calorico, ma anche delle proprietà importanti, è ricco di antiossidanti, di vitamine, anche di magnesio, per esempio, quindi ha anche addirittura delle proprietà leggermente rilassanti. E quindi, certo, è il tipico snack che potrei condividere al 100%. Sgranocchiate semi di zucca, ci scrive un ascoltatore. Sono pieni di zinco e triptofano. Il vostro sonno, il vostro cervello vi ringrazieranno molto. Dottor Ongaro, i semi di zucca li consigliamo, così anche Deborah alterna, oltre alle bacche di goji. Certo, queste sono tutte cose che possono essere prese in considerazione, insomma, senza dubbio, tra le bacche, le mandorle, i semi. E io il consiglio che do, visto che hanno tutte delle caratteristiche un pochino differenti, di alternarle. Comunque, dottor Ongaro, che mi ha detto la settimana scorsa, quando ero a Firenze, che le trovo tutte io, le storie, le leggende sulle bacche di goji, c'era un articolo ieri sulla stampa che, oltre chiaramente a raccomandarne il consumo e a decantarne tutte le virtù, spiegavano anche in questo articolo che le modalità di consumo sono diverse, fra cui, oltre a mangiarle così nel pugnetto in mano come lei indica solitamente, si possono mettere anche a bagnomaria, come io ho visto fare da quel famoso signore nell'hotel di Firenze, e lei mi ha detto: ma insomma, Deborah, li trovi tutti tu. E invece così. No, io avevo detto che non l'avevo mai visto, ma che lo trovavo sensato, no? Certo. Non era in senso critico il mio allora, commento. Posso, adesso metto, aspetta un attimo, Sant'Ambrogio, nei vostri discount dovete mettere a disposizione anche questi alimenti, questa sorta di integratore, le bacche, come sono? Come si definiscono tra l'altro le bacche di goji? Beh, che arrivano possiamo dire superalimenti, dottor Sant'Ambrogio, sì, tra l'altro. Beh, no, è un alimento che ha delle, possiamo dire che ha delle super caratteristiche, certo, ma è un alimento. Però non si trovano, siccome allora noi andiamo al discount per risparmiare qualcosa, le bacche di goji un pochino costano. Sant'Ambrogio, lei ne ha mai sentite nominare? Sì, abbiamo il nostro assortimento, ma sa qual è il claim dei nostri supermercati? Che è storico, e Deborah, Nicoletta, voi ve lo ricorderete, io me lo ricordo, il piacere di fare la spesa. Il piacere di fare la spesa significa il piacere di risparmiare, il piacere di trovarsi in un ambiente come a casa propria, e soprattutto il piacere di avere consigli sui prodotti che si trovano. Ahimè, questo nei discount spesso non c'è, perché avere consigli significa aumentare i costi, personale dedicato, certo, aumentare i costi. Quindi bisogna trovare un giusto trade-off, perché se io voglio trovare un assortimento ampio, profondo, quindi trovare anche questo prodotto che abbiamo appena detto e che ahimè nei discount non si trova, bisogna andare appunto nei supermercati, perché adesso nei supermercati la sfida non è soltanto il prezzo più basso, che è una condizione igienica, è, io l'ho chiamato con un acronimo, point of education, cioè il punto di vendita deve diventare un punto dove bisogna informare il cliente tramite il QR code, tramite dei leaflettini, tramite il personale stesso, sull'alimentazione dei nostri clienti consumatori. Che brutto chiamarli consumatori, chiamiamoli clienti individui. Un cliente entra nel supermercato e, se non sa, deve trovare, deve essere informato, e abbiamo mille modalità. Nei supermercati questo si fa, nei discount un po' meno. Ecco perché la sfida è quella di ragionare chiaramente dal punto di vista della convenience sui prezzi più bassi, ma tramite le promozioni e tramite le marche commerciali e tramite il rapporto empatico che possiamo costruire con i nostri clienti nei supermercati, la sfida nel medio e lungo periodo farà sì che i discount avranno sempre una quota di mercato. Che bello avere questa offerta che ti permette di avere low cost, ma non raggiungeranno le quote di mercato che abbiamo con i supermercati, dove il cliente in ogni caso trova il piacere di fare la spesa. Sant'Ambrogio, grazie per essere stato con noi. Allora ci viene a prendere sabato? Esatto, a che ora ci troviamo? Qua davanti al Sole 24 Ore? Alle 3 va bene? Assolutamente sì. Grazie. Tornando dalla Sicilia. C'è, buona giornata. Ah, c'è un ascoltatore. Grazie molto. Un ascoltatore che dice: che bella via che avete trovato per risparmiare, Deborah e Nicoletta. Fare la spesa con la carta di credito altrui. Che cosa c'è di più bello? Andiamo a sentire il nostro GR. Va là. 800 24 00 24. Mandateci anche i vostri tweet. Siamo tornate, vi mancavamo. E eccoci, soprattutto qui. Vi abbiamo fatto venire voglia di andare a curiosare in maniera un po' più consapevole tra i banconi del supermercato o del discount, a seconda di quello che scegliete per la vostra spesa quotidiana e settimanale. Raccontatecelo all'800 24 00 24. Tante notizie. Tante notizie e tanti ospiti in linea. Abbiamo il dottor Filippo Ongaro che ci accompagnerà fino al termine della nostra puntata. Vi abbiamo chiesto di mandarci con un tweet a @cuoredenari l'alimento a cui avete rinunciato e quello a cui non rinuncereste mai. Ci scrive Tite Togni, chi va di corsa la conosce bene e anzi vi invito a riascoltare i suoi interventi proprio per i maratoneti sul nostro sito, ma ci verrà a trovare prestissimo. Ci scrive: dottor Ongaro, che ha eliminato i latticini e digerisce tutto il resto come acqua, anche di corsa, dal colesterolo è passato da 209 a 170, mentre l'alimento che non, a cui non rinuncerebbe mai, e giustamente a cui non bisognerebbe mai rinunciare, è l'acqua. Dottor Ongaro, questo tweet che cosa ci racconta? Beh, sull'acqua sicuramente c'è poco da dire, nel senso che è assolutamente vero, tendiamo tutti a bere troppo poco e bisognerebbe insistere molto di più anche sul lavoro, sulla scrivania, tenersi una bottiglia d'acqua, insomma bere ogni 20-30 minuti è una buona norma. Sì? Sul discorso del latte e dei latticini, beh, lì è un dibattito che Nicoletta interminabile, interminabile, anche insomma devo dire io ho un atteggiamento di dire anche abbastanza soggettivo, insomma, certo. Dove non ci sono intolleranze, allergie e problematiche di digeribilità, la questione del latte rimane una questione di qualità o meno del prodotto. Dove invece ci sono effettivamente delle risposte che segnalano che ci può essere un problema di intolleranza, di allergia, è chiaro che si sceglie evidentemente una strada alternativa, insomma. Vogliamo leggere alcuni tweet, Deborah? Certamente. Allora, Margherita ci racconta la sua esperienza con la spesa al discount, due della stessa marca, uno molto meglio dell'altro, perché c'è un gestore che è molto attento ai freschi e alle cose del territorio, proprio come il bottegaio di una volta, e quindi, insomma, siccome siamo dei consumatori diventati molto scaltri, molto preparati, siamo in grado di fare delle scelte, quindi di valutare se uno ha un'offerta migliore di un'altra. Serena invece si scrive, a proposito della famosa ora X in cui scatta quel languorino del quale abbiamo parlato stamattina, a metà pomeriggio mi scatta l'ora X e cerco qualcosa da sgranocchiare, per fortuna quasi sempre mi butto su frutta e yogurt. Essere e benessere. Pronto? Io sono la camera 35. Sì, vorrei qualche cosa da mangiare. Da? Com'è mangiare? Ma non roba pesante, roba leggera. Qualche panino, sì, qualche acciugo, un po' di burro, spaghetti, carne, pesce, bene, bene. Sì, carne, pesce e osso buco. Benone, sono ghiotto. Oh, ma senza osso, solo il buco, eh? Eh no, perché l'osso non lo digerisco. Frutta, formaggio, caffè e antipasto. Io per antipasto piglio pasta e fagioli. E un po' di bicarbonato. Tutto questo per quattro, eh? Ma mi raccomando, subito. Ma sì, vamos a comer, come direbbero in Spagna. Diciamo che il concetto un po' di spesa proletaria, come quello che abbiamo potuto estrapolare da questo brano con Totò, il concetto di spesa proletaria che sta dietro al discount non è esattamente appunto quello di questo film. Grandi manovre nelle nostre dispense, alimenti da eliminare, altri da aggiungere, altri da mettere in panchina e da consumare saltuariamente. Ma anche nei supermercati c'è fermento. Sì. Eh sì, se i clienti Lidl non troveranno nei prossimi giorni sugli scaffali la Coca-Cola e le altre bevande del gruppo. Tra l'altro, a proposito di Coca-Cola, invece farà una cosa molto interessante per noi. Assolutamente, super interessante, direi, perché diventa lo sponsor dei fori imperiali. Hai capito. E allora, tornando ai nostri centri commerciali, ai nostri supermercati, i clienti di 7 grandi catene, io li cito perché anche questa è una notizia nota, Coop, Conad, Auchan, Carrefour, Simply, Lidl, Billa, Eurospin, più altre catene minori come Soge Gross in Liguria e Gross Cidac in Valle d'Aosta, hanno deciso di pubblicare sui loro siti le notizie sui prodotti che, a vario titolo, hanno dovuto ritirare dagli scaffali. E questa è una vittoria ottenuta da una petizione che ha avuto un grande successo. Lo vogliamo ricordare? Sì, è la petizione lanciata su change.org dal Fatto Alimentare, e in linea con noi abbiamo l'avvocato Dario Dongo, che è tornato a trovarci. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi tutti. Eccoci qua. E allora, anche voi avete una parte di responsabilità in questa vicenda, avvocato. Che cosa è successo? Quali sono intanto i prodotti ritirati? Ma i prodotti ritirati sono di diverso tipo. La nostra petizione nasce da una esigenza condivisa a livello europeo, non soltanto nazionale, di mettere i consumatori nelle condizioni di sapere, conoscere in tempo reale qualora vi siano problemi legati alla sicurezza degli alimenti. Quindi un'informazione che tra l'altro risponde ad un regolamento europeo, il regolamento 178 del 2002, cosiddetto General Food Law, il quale prevede appunto che sia informato il consumatore in tempo rapido e con modalità anche efficaci, vale a dire precisando le ragioni del ritiro del prodotto, quali sono i prodotti identificati come potenzialmente a rischio, che cosa fare, quindi se restituirli o rivolgersi, se del caso, eventualmente anche a qualche specialista, in maniera del tutto trasparente, perché questo è quello che serve, una comunicazione trasparente che non sia limitata all'ambito commerciale, ma anche a quelle eventuali criticità che possono, che è normale poi che si verifichino. Ecco, tra l'altro, è così in tutto il mondo. Sono molte le ragioni che possono portare una catena appunto commerciale a ritirare un prodotto, perché insomma possono capitare diverse situazioni. Il tema è la modalità con cui questo ritiro viene comunicato ai consumatori. E quale modalità secondo lei privilegeranno in futuro, sperando che naturalmente queste occasioni non capitino, i centri commerciali, appunto le insegne di cui abbiamo parlato, non so, appenderanno un foglio alla porta d'ingresso del supermercato, avvocato? Questo può essere una modalità, certamente. Poi ricordiamo che il web oggi è uno strumento principe di comunicazione che internet, e quindi molti clienti sono anche iscritti a social media delle catene di distribuzione piuttosto che abbonati per ricevere anche informazioni su sconti, promozioni. Poi ove del caso sono anche da considerarsi gli strumenti tradizionali, quindi radio, televisione, stampa, oltre alle eventuali affissioni appunto nei punti vendita. Avvocato, lei ha anche un portale che Deborah conosce bene, che apprezza, Italian Food Trade, che è in 7 lingue, a breve in 8, vero? Sarà tradotto. Possiamo dire, una vetrina globale sulla produzione alimentare italiana e anche sui suoi protagonisti, con un'attenzione particolare ai temi dello sviluppo sostenibile e della nutrizione equilibrata, proprio a presidio della salute. Insomma, devo dire, un portale a cui Cuore Denari potrebbe mettere il suo bollino blu, no? Di qualità, certo, perché rispetta il cuore inteso come salute, ma anche un occhio al denaro. Dottor avvocato Dongo. Sì, questo progetto nasce da un'esigenza molto sentita e condivisa, che è quella di diffondere a livello globale la cultura della produzione alimentare italiana, che è una produzione di grande prestigio, è uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy e si caratterizza sempre più non solo per l'eccellenza delle produzioni, la sicurezza, la qualità, che sono anche oggetto di numerose certificazioni, ma anche per il crescente impegno verso lo sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile significa considerare coloro che verranno e fare in modo che la loro vita potrà essere piacevole quanto la nostra e possibilmente anche più. Questo comprende anche un interesse e un'attenzione particolare alla dieta mediterranea, che è stata riconosciuta un paio d'anni fa come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO e che viene sempre più riconosciuta nei suoi valori essenziali quale ingrediente di buona salute. Gli posso chiedere, avvocato Dongo, che cosa ha mangiato stamattina a colazione? Ma io questa mattina a colazione ho mangiato un po' di frutta e ho bevuto un paio di caffè, che pure si dice facciano molto bene. È vero, perché preservano da problematiche il fegato e tante dottor altre cose. Dottor Ongaro, devo dire un po' pochino. Questo sì. Avvocato Dongo potrebbe fare di più. L'avvocato Dongo è molto magro. Lei non rida sotto i baffi, dottor Ongaro. Che non ha, tra l'altro. No, io rido perché invece io ho mangiato due uova soda, il pane integrale e l'avocado. Quindi... Ah, allora sa che c'è? Che domattina pure io. Track. Intanto che tutti debbano mangiare così, ma citavo il fatto che io la colazione tendo a privilegiarla molto, certo. E mangio abbastanza anche perché faccio parecchie attività fisiche e per me la colazione è un momento importante, non le mangio tutti i giorni così, la alterno, ma certo. È un pasto che Nicoletta sa curo con una certa attenzione. Un caffettino non ce l'ha messo? Sì, il caffè sì, sono assolutamente d'accordo, il caffè ormai però ci sono molti dati a sostegno dell'uso del caffè. E a tutti gli effetti è proprio un vero mini pasto, che poi su quel mini ci sarebbe da discutere, ma io invito i nostri ascoltatori a cui abbiamo chiesto di raccontarci che cosa tolgono dagli scaffali della loro dispensa, dal frigorifero, che cosa vogliono aggiungere, che cosa non rinuncerebbero mai e quello a cui hanno rinunciato, magari per questioni di cuore o di denari, di individuare anche il momento della giornata in cui si sentono proprio in calo di energia, viene da dire non connetto più, sono stanchissimo, non ce la faccio, oppure hai proprio quella voglia di sgranocchiare qualcosa, perché questi, dottor Ongaro, sono dei segnali che ci possono raccontare se il carburante che noi introduciamo nel nostro organismo è della qualità e della quantità giusta, è corretto, dottor Ongaro? Sì, sì, certo, assolutamente, e ovviamente anche se è distribuito in maniera corretta nel corso della giornata. Quindi il buco che avvertiamo a metà mattina è forse dovuto a una prima colazione non sufficientemente ricca, un po' squilibrata. Esempio tipico, sono tanti gli italiani che si alzano, si prendono un cappuccio e una brioche al volo, solo il caffè. Oppure quello di metà pomeriggio potrebbe essere, magari che viene subito dopo un paio d'ore dopo il pranzo, che la distribuzione degli alimenti nella pausa pranzo non è stata adeguata, dottor Ongaro. Potrebbe essere, per esempio, che ho ecceduto un pochino con i carboidrati, ho mangiato, non lo so, un mega piatto di pasta e poco altro, e questo ha dato una sferzata alla glicemia iniziale, che poi però si è riabbassata a valori inferiori a prima del pasto, e quindi io avverto di nuovo una stanchezza, una certa fame, eccetera. Quindi sì, non solo il contenuto del singolo pasto, ma anche come viene distribuito nel corso della giornata ha un peso su questi vuoti che poi ti portano un po' a mangiare la prima cosa che ti capita a tiro, insomma. Certo. Andiamo agli ascoltatori, che sono in tanti. No, stavo sorridendo su Loredana da Genova, che poi ci facciamo raccontare le strategie che deve mettere in campo in casa sua, perché ha un marito un po' severo. Però prima partiamo con Alessandra dalla provincia di Vicenza. Alessandra. Sì, buongiorno. Buongiorno. La mia domanda è perfettamente collegata a quanto avete appena detto. Fantastico. E riguarda proprio la colazione. Allora, mio marito fa colazione più o meno da 20 anni con pane, burro e marmellata. La fa alle 6 del mattino, lui fa un sacco di sport e mi domandavo se, perché per lui non esiste altro, volevo sapere se poteva andare bene, insomma. E posso farne un'altra? Siamo in due, le due domande, dai. È una ragazza che fa le medie e va a scuola dalle 8 alle 14 e ha due pausette, e volevo sapere quali erano le cose corrette da darle in modo che non avesse fame fino alle 2, insomma, ecco. Grazie. Dottor Ongaro, qui c'è da lavorare. Allora, al marito pane, burro e marmellata da sempre mangiato, è contento così, cosa gli facciamo aggiungere? Ma no, potremmo anche semplicemente, visto che la signora ha detto che fa parecchio sport, potremmo anche semplicemente fare due piccoli cambiamenti, cioè per esempio scegliere la marmellata senza zuccheri aggiunti e il pane scegliere del pane integrale. Già così abbiamo fatto un cambiamento abbastanza importante, mentre per la figlia io il discorso della merenda, della pausa, suggerisco comunque di stare con la frutta e magari anche le mandorle, delle noci, o se ha della preferenza per delle cose un pochino più dolci, anche, non so, un dattero, un fico secco, cioè delle cose che hanno una componente anche appagante in termini di gusto dolce, però sono comunque degli alimenti, insomma, a tutti gli effetti. Simonetta scrive: il dottor Ongaro ha scritto dei libri, tanti ne abbiamo, e magari facciamo anche un regalo alla nostra ascoltatrice, perché dice: ho tre figlie e vorrebbe trovare qualche suggerimento, perché evidentemente ha qualche difficoltà. 16, 11 e 8 anni, non so più cosa fare da mangiare, dottor Ongaro, perché qua per i bambini qualche volta bisogna un po' attirarli anche con degli stratagemmi nei confronti di alimenti che non gradiscono, tipicamente la verdura, no? Per i piccoli. Sì, bisogna utilizzare degli stratagemmi, bisogna anche dare molto l'esempio a casa, bisogna anche essere un pochino equilibrati, nel senso di non far diventare la cosa un po' un'ossessione, ma di lasciare anche che si avvicinino con curiosità gli alimenti. Certamente nei miei libri ci sono delle indicazioni, ma mi farebbe anche piacere citare il lavoro di Paola Reverso, che con noi ha collaborato spesso e che è abbastanza concentrata sul discorso dei bambini, e i libri di Marco Bianchi, che secondo me sono comunque dei libri molto utili anche per questo aspetto del, tra virgolette, ingannare il bambino, perché gli stai facendo un qualcosa di molto buono, che sotto certo, però ha anche i classici alimenti che i bambini alle volte fanno un po' fatica. Ma quindi libri, sì, libri più ricettosi. Le ricette di Paola Reverso le potete trovare anche sul nostro sito. Abbiamo parlato di sale, la dottoressa Reverso ci ha regalato degli stratagemmi per sostituire o ridurre il pizzico di sale che normalmente, senza quasi pensarci, d'abitudine aggiungiamo ai nostri alimenti. E abbiamo Giovanna da, no, prima c'è Loredana da Genova. No, Loredana, poverina, dai, perché io devo capire che cosa succede in questa casa. Loredana, buongiorno. Allora, buongiorno a tutte voi. Una cosa velocissima, perché tra poco arriva mio marito. Oh, per carità. E quindi neanche dobbiamo fargli scoprire che sta telefonando. No, vabbè, dunque io mi ritrovo a nascondere la cioccolata fondente o le barrette o qualcosa di dolce, perché alla sera dopo cena, vabbè, stiamo un po' lì, poi prima di andare a dormire mi viene voglia di aprire il frigo, di mangiarmi qualche cosa. E mi dà molta gratificazione. Gratificazione questo mangiare. No, posso dire a mio marito, perché lui mi vuole bella magra. Io ho 63 anni, non sono una ragazzina, faccio molta ginnastica, sono sempre in movimento. Però c'è questo maritino che ancora ci tiene ad avere la mogliettina in piena forma. Certo, ci tiene proprio perché se mi vede mangiare dolci mi dice, ma era proprio il caso. Vabbè. Comunque, niente, volevo chiedere questo. In particolare volevo chiedere di questa stevia, della quale ho sentito parlare, e dello zuccherin, che è un altro prodotto che è, pubblicizzato, prodotto della Norvegia. Chissà se lo sa l'avvocato Dongo. L'avvocato Dongo, lei conosce lo zuccherin? Lo zuccherin non lo conosco. La stevia la conosce bene. È stata anche oggetto di diverse valutazioni di che tipo? Riguarda la sicurezza e l'idoneità al consumo umano da parte dell'autorità europea. Ha superato questi esami? Perché ha superato brillantemente questi esami, e quindi è un dolcificante naturale con forse un sapore che non è facile da apprezzarsi da parte di tutti, però ha delle prerogative interessanti. Allora, dottor Ongaro, a lei l'ultima parola su zuccheri, se lo conosce. Ma io non so se si riferisce al nuovo dolcificante, non conosco il termine zuccheri, conosco il termine sucrin, è un nuovo, un nuovo dolcificante che sta diciamo prendendo un pochino piede, che pare possa avere un gusto anche un pochino migliore della stevia, però la stevia sicuramente, come diceva l'avvocato, ha superato già tutta una serie di test, e a parte il retrogusto di liquirizia devo dire che funziona abbastanza bene. Ottimo, da parte nostra tutto l'incoraggiamento alla nostra ascoltatrice per questo rapporto conflittuale col marito che non lavora davanti al frigorifero. E noi che facciamo? Salutiamo tutti. E ci ritroviamo come sempre domani alle 11. Grazie all'avvocato Dongo e naturalmente grazie al dottor Ongaro, a Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, a Marco Lombardo e Laura Vanossi per l'assistenza in redazione. A domani. A domani.